ad alta voce, edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. Quarta puntata. Prigioniera. Più tardi, insieme alla folla, arriverà il chirurgo, Dr. Thomas Big. Da lui ascoltiamo una descrizione più esatta delle condizioni in cui si trovano i corpi e del modo in cui fu perpetrato il delitto. Thomas Big. Mr. Farlow, portiere del Temple, venne da me al Rainbow Coffee House di Temple Bar a chiedermi di andare insieme all'ufficiale giudiziario a esaminare i cadaveri. Nella prima stanza ho trovato la giovane domestica, Anne Price, che giaceva nel letto con i capelli disfatti e solo la camicia addosso. Il mento era stato abbassato, come con il disegno di nascondere le ferite nella gola. Le ho alzato il mento e ho trovato 3 incisioni. Una di queste non era mortale, ma quella centrale divideva la trachea e sia questa che l'ultima ferita erano sufficienti a causare la morte. Il taglio della trachea non è sempre mortale, perché può essere talvolta curato, ma in un caso come questo, dove i grandi vasi sanguigni sono stati tagliati, la morte è la conseguenza inevitabile. Non portava copricapo, i capelli erano sciolti e sembrava aver lottato duramente per la sua vita. Mentre ero chino sul letto, la folla mi spingeva a tal punto che rischiavo di avere le gambe spezzate e non ho potuto osservare così minutamente come avrei fatto altrimenti. Il corpo che ho visitato successivamente è stato quello di Elizabeth Harrison. Era stata strangolata, a quel che sembrava, da un laccio, come il laccio di un grembiule o uno spago da pacco. Lo avevano stretto con tanta forza che la pelle era lacerata e il segno molto profondo. C'erano anche segni di nocche sulla sua trachea e il sangue le era uscito dal naso. Portava una veste, una sottoveste e un paio di calze. L'avevo conosciuta quando facevo il mio apprendistato. Aveva le gambe malate e per questo suppongo dormiva con le calze. Anche la veste sembrava una specie di veste da camera e immagino che, essendo vecchia e inferma, dormisse con quella addosso e anche la sottoveste. L'ultimo corpo è stato quello di Mrs. Duncombe. C'era una piccola grinza sul suo collo, appena di che dare il sospetto che fosse stato stretto da un laccio, ma il segno era così tenue che, se non fosse stata tanto vecchia e debole che una cosa da niente poteva ucciderla, sarebbe stato difficile credere che quella fosse la causa della sua morte. La notizia si diffonde rapidamente. Uscendo da mensa, 2 giovani studenti di giurisprudenza, John Carroll e John Geoghegan, trovano una gran folla, chiedono che cosa è successo e ascoltano il racconto dei 3 delitti. John Carroll Esquire è il giovane gentiluomo irlandese al cui servizio Sarah lavora da 3 mesi. John Geoghegan è il suo amico e vicino di Pianerottolo. La loro casa esiste ancora, quasi immutata, salvo qualche modifica nella facciata. L'accesso alle camere occupate dai 2 amici è attualmente chiuso da una porta sulle scale. Geoghegan commenta: «Questa Mrs. Duncombe era una conoscenza della tua Sarah». I 2 amici si spingono fino al Coffee House in Covent Garden, dove tutti parlano del delitto. L'opinione corrente, racconterà Carroll al processo, era che doveva essere stato commesso da qualche lavandaia che conosceva le stanze. Da lì si spostano al Horseshoe and Magpie in Essex Street, dove fanno 1 del mattino prima di tornare a casa. Ma la notte non è finita. «Ho trovato la porta aperta», racconta Carol, «e la prigioniera nella mia stanza. Ehi, Sara, dico io, sei qui a quest'ora della notte? Tu la conosci, Mrs. Duncombe, sai se qualcuno è stato arrestato per quei delitti?» «No», dice lei, «ma un gentiluomo che ha le stanze sotto di lei è stato via per 2 o 3 giorni ed è sospettato». Dico io, «non voglio che resti qui nessuno che conoscesse Mrs. Duncombe finché non si è trovato il colpevole, perciò prendi le tue cose e vattene». Intanto Mr. Gahagan è sceso a cercare la guardia, ma non è riuscito a trovare la porta e perciò è tornato su. Io scendo, chiamo due guardie e le porto di sopra. La trovo che sta tirando fuori biancheria dai miei cassetti. Le chiedo di chi è questa roba, mi dice che è sua. Vado all'armadio e non trovo certi miei panciotti, domando che cosa ne ha fatto. Mi prende da parte e mi dice che li ha impegnati da Mr. William a Drury Lane per 2 guinee e mi prega di non arrabbiarmi. Io le dico che non sono arrabbiato per questo, ma sospetto che sia coinvolta nel delitto. Subito dopo noto per terra un fagotto di panni avvolti. Domando che cos'è e lei mi dice che è il suo vestito. E dentro al vestito che cosa c'è? Dico io. Biancheria, dice lei, che è sconveniente mostrare a un uomo. E così ho rinunciato ad aprirlo. Continuo a cercare, mi mancano diverse cose, mentre ne trovo altre che non sono mie, e così la affido alla guardia e dico di prenderla in consegna e di portarla via. Dopo che se n'è andata, trovo un altro fagotto nella mia camera da letto. Chiamo Mr. Gahagan e glielo faccio vedere. Decidiamo di cercare a fondo e guardiamo anche nella seggetta, dove troviamo altri panni e un boccale d'argento col manico sporco di sangue. Allora corriamo dietro a una delle guardie e quella ci dice che l'ha lasciata andare, facendole promettere di tornare l'indomani mattina alle 10. Gli dico che deve ritrovarla a tutti i costi. Fa un fischio al suo compagno che è di guardia al cancello e insieme la vanno a cercare e me la riportano. Le faccio vedere il boccale sporco di sangue, i panni, e le chiedo se sono suoi. Mi dice di sì, glieli ha lasciati sua madre. Le chiedo com'è che il boccale è sporco di sangue. Mi dice che si è tagliata un dito. Quanto alla biancheria, mi dice che non è sangue ma è indisposizione. Il racconto di Gahagan è più colorito, forse anche da tutta la birra che ha ingurgitato. Abito sopra all'Alienation Office, al terzo piano. Le mie camere sono a sinistra e quelle di Mr. Carroll a destra. Siamo intimi amici. Domenica mattina, 4 febbraio, mi sono alzato verso le 8 e ho visto la porta di Mr. Carroll chiusa. Verso le 9 è arrivata la prigioniera. Ha aperto la porta ed è entrata. E dopo neanche 10 minuti lui è venuto al mio letto e mi ha detto: «Sei stato un buon avvocato per me la notte scorsa, ti offro la colazione». Le ha dato uno scellino per comprare un po' di tè. Lei lo ha preparato ed è rimasta finché è suonato per la mensa. Dopo la mensa, io e lui ce ne siamo usciti insieme. Attraversando Tenfield Court abbiamo visto una grande folla, abbiamo chiesto a Mr. Clark, uno scrittore, che cosa succede. Ci racconta del delitto e poi dice a Mr. Carroll: «La tua serva la conosce». Siamo andati a un caffè di Covent Garden, dove certi gentiluomini che parlavano del delitto dicevano: «Dovrebbero sospettare qualcuna delle lavandaie». Siamo stati lì fino alle 8 e poi siamo andati al Horseshoe and Magpie in Essex Street, dove siamo rimasti fino all'1 del mattino. Quando torniamo a casa, troviamo la porta aperta, il fuoco e una candela accesa nella stanza e la prigioniera in piedi vicino al fuoco. Dice Mr. Carroll: «Sara, questa Mrs. Duncombe la conoscevi? Hai sentito se qualcuno è stato arrestato per il delitto?» E lei dice che un certo Mr. Knight, che abitava sotto Mrs. Duncombe, era sospettato. «Bene», dice Mr. Carroll, «nelle mie stanze non ci voglio nessuno che conoscesse Mrs. Duncombe». Sono andato giù a cercare la guardia, ma siccome c'è una doppia porta per l'Alienation Office, ho armeggiato un po' e non sono riuscito ad aprire, così è venuto giù lui e ha portato sulla guardia. Non trovava più i suoi panciotti e le ha chiesto dove sono finiti. Lei vuole parlargli in privato, ma lui dice: «No, non ho faccende con te di cui fare un segreto». Allora lei gli dice che li ha impegnati. Lui prende a calci un fagotto nell'armadio e le chiede che cos'è. Lei dice che era un suo vecchio vestito con dentro un grembiule e una camicia, ma che è una visione indecente per un uomo e perciò lo pregava di non guardare, così lui ha lasciato stare. Poi la guardia l'ha portata giù e dopo che se n'è andata, lui guarda sotto il letto e trova un altro fagotto. «Accidenti», dice, «qui c'è un altro fagotto di panni lasciato da quella troia». E continuando a frugare trova nella seggetta altri panni e il boccale. Scendiamo insieme e lui chiama la guardia e chiede dove è andata la donna. La guardia dice che l'ha lasciata andare. «Razza di un cane», dice Mr. Carroll, «vai a cercarla o ti mando a Newgate». La guardia la trova subito e ce la riporta. Brutta dannata assassina di una troia, dico io. Non ti bastava rubare la gente ed essere dannata, ma dovevi anche assassinarla. Ti vedrò impiccata, troia di una maledetta bastarda. Così le ho mostrato il boccale e lei si mette a pulire il manico con il suo grembiule. No, no, dico io, puttana sanguinaria, tu non lo ripulisci. Dice che è suo, che gliel'ha dato sua madre, che lo ha riscattato dai pegni dove era impegnato per 30 scellini. Maledetta troia, dico io, tua madre non valeva certo questo boccale. Ho fatto una gran fatica a non mettere le mani addosso a quella puttana. Alla testimonianza dei due studenti si aggiunge quella dei due guardiani del tempo, John Mastreter e Richard Hughes. Il loro racconto è molto simile, ma in quello di Hughes c'è qualche elemento nuovo. Ero di guardia nel Temple, all'una passata di lunedì mattina, quando ho sentito Mr. Carroll chiamare «Guardia!». Il mio collega Mastreter è andato a sentire e poi ha chiamato anche me. Siamo andati su e la prigioniera ci ha aperto. Mr. Carroll frugava nei cassetti e in quello di mezzo c'era un paio di orecchini che appartenevano a lei, che se li ha presi e se li ha messi in petto. In un'altra stanza c'erano dei vestiti e lui le chiede dei suoi panciotti. Lei lo prende da parte, gli sussurra che li ha impegnati. «Perché non mi hai chiesto i soldi?» si arrabbia lui. Poi dice a me e Mastreter di prenderla in custodia, ma siccome non l'avevamo ricevuta in custodia da un agente, ci è sembrato che non si poteva trattenerla e così l'abbiamo lasciata libera. È arrivata fino all'arco di Tanfield Court e poi è tornata indietro dicendo che era tardi e che abitava lontano, a Shoreditch, e perciò preferiva sedere tutta la notte in guardiola piuttosto che andare a casa. «No, no!» le dico io. «Non te ne stai seduta tutta la notte in guardiola, sicché vattene per i fatti tuoi e torna qui alle 10!» Dice «Va bene, tornerà alle 10 e se ne va. Ma appena è andata via, Mr. Carroll viene giù con un boccale e certa biancheria pulita, arrabbiatissimo che l'abbiamo lasciata andare. Allora vado a cercarla e la trovo al cancello del Temple, seduta in mezzo a due guardie. Le dico che Mr. Carroll le vuole parlare e per convincerla dico che non è più tanto arrabbiato. Così me la riporto indietro. Lui le fa vedere il boccale e lei era di mia madre. «Come mai è sporco di sangue?» chiede lui. E lei spiega che se punta un dito. Poi l'ho portata al posto di polizia, ce l'ho lasciata, me ne sono andato e mi sono riempito la pipa. Ma lì per lì mi viene in mente che quando ero nella camera di Mr. Carroll avevo dato un calcio a un fagotto avvolto in un vestito e ho chiesto cos'era. E lei dice che c'erano dentro la sua camicia e il grembiule, roba che per decenza non si deve guardare. Lo dico alla gente e lui subito li vuole. Così sono tornato e ho preso il fagotto di cui c'erano la camicia e il grembiule. Di cui? In cui, volete dire, lo corregge il pubblico ministero. Ed è così che Sarah Malcolm, avendo fatto tutto il possibile per farsi prendere, viene condotta al posto di polizia e poi in prigione. Oh Sally, my dear, it's you I'd be kissing. Oh Sally, my dear, it's you I'd be kissing. She smiled and replied, you don't know what you're missing. Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.